Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come ogni giorno da 11 anni, ve la raccontiamo. E allora la Grecia sullo sfondo, nuove ipotesi, nuove smentite, ma insomma adesso vi racconterò alcuni dati. È chiaro che in questa situazione la Grecia non è in grado di richiedere nuovi prestiti sul mercato, e lo dice un dato su tutti: rendono moltissimo le emissioni di debito greco, quindi le obbligazioni greche a 2 anni, il 23%, un tasso non pagabile, ma questo è quello che il mercato dà come prezzo, e rendono molto di più delle emissioni a 10 anni. Come dire, nessuno nemmeno si mette a ragionare su quello che sarà il debito greco tra 10 anni, il rendimento è intorno al 15%, ma il messaggio è che nei prossimi 2 anni non si ritiene in grado quel paese di emettere, nella situazione corrente, di trovare dei sottoscrittori del suo debito o comunque di ripagare il suo debito, perché un tasso di interesse al 23%, lo capiscono tutti, è un tasso che nel mondo privato sarebbe già da strozzinaggio, ma non è un tasso che viene applicato, è quanto il mercato prezza il debito greco. Ossia, per comprare debito greco la Grecia dovrebbe offrire, per trovare dei compratori, il 23% di rendimento. E su questo sono intervenuti vari esponenti, anche il commissario, uno dei membri del Consiglio della Banca Centrale Europea, e mi riferisco all'italiano Lorenzo Binismaghi, lo ascolteremo, faremo anche un punto sulla Grecia alle 18. Partiremo in apertura da Rete Imprese per l'Italia, che cos'è l'unione tra CNA Artigiani, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato. Oggi l'assemblea annuale, sono sostanzialmente 2.800.000 le imprese iscritte per un totale di 14 milioni di persone che vi lavorano, e anche qui le richieste sono politiche per la crescita e definiti pannicelli caldi, quelli annunciati dal governo. Il peso del fisco per le imprese associate, ha detto il presidente Guerrini, è di circa il 50%. Ancora parleremo del settore auto e poi, come sempre, dei mercati finanziari. Mercati che oggi recuperano gran parte di quello che hanno perso ieri: più 1,5% a Milano, più 1,30% a Parigi, più 1,30% a Francoforte, più 1,30% anche Londra, lo 0,46% invece al rialzo dell'America. L'euro ha recuperato qualcosa, quota 1,4366, dopo che era scivolato a quota 1,42, ma ripeto, un euro a quota 1,40 è un euro assolutamente forte nei confronti del dollaro. Recuperano soprattutto alcuni bancari: il Banco Popolare più 1,80, Popolare di Milano più 1,70, Intesa pure, Mediobanca più 1,5 come Monte dei Paschi, le Generali, e bene anche UbiBanca più 0,80, molto bene Mediolanum più 3,1, Pirelli più 2,70, Prismian più 2,5 e Finmeccanica più 2,40, devo dire anche Unicredit molto bene, più 2,22%, Tods più 2%, Enel più 2%, Enel Green Power più 1,80%, bene Fiat più 1,70%. Chi perde tra i titoli maggiori? Autogrill, poca cosa, e l'Ottomatica, lo 0,50% Autogrill, lo 0,20% l'Ottomatica. L'ultimo numero, come sempre, per i vostri sms: 349-238-6666. Vediamo subito gli altri mercati. Il petrolio è in calo a $102 a New York, comunque sotto i livelli altissimi delle ultime settimane, 109, 108, però insomma sempre sopra i $100. L'oro è in leggero calo anche oggi, a $1,507 l'oncia. Sul fronte dell'economia internazionale, e di questo ci occuperemo, ho dimenticato di annunciare l'altro tema di questa puntata, l'operazione enorme in cui Microsoft si va a comprare Skype, il sistema più utilizzato al mondo per le telefonate via internet, le telefonate praticamente gratuite. Pagherà 8 miliardi e mezzo di dollari Microsoft per ottenere in sostanza anche i 145 milioni di persone che ogni mese si avvalgono dei servizi di Skype, tra cui un 10% però utilizza quelli a pagamento. Va fatto notare che nonostante questo, Skype l'anno scorso ha chiuso l'anno con una perdita di 7 milioni di dollari rispetto a 860 milioni di fatturato. La Grecia, allora, secondo indiscrezioni di stampa, si sta predisponendo a livello europeo un nuovo pacchetto di aiuti, varrebbe 60 miliardi per la Grecia e andrebbero a sommarsi ai 110 già messi in campo dai paesi, dal Fondo Monetario Internazionale e dall'Unione Europea per il primo salvataggio della Grecia, quello dell'anno scorso. Brevissimo inciso, quando noi diciamo da mesi che la Grecia è tecnicamente fallita, alcuni si sono un po' irritati, è così, cioè senza i 110 miliardi di aiuti, 110 miliardi per un paese come la Grecia, fate le debite proporzioni, come se noi avessimo ricevuto qualcosa come 800-900 miliardi di aiuti. Senza quegli aiuti la Grecia falliva l'anno scorso, senza questi 60 miliardi di cui sta discutendo probabilmente non riuscirà a ripagare il debito. Ora è viva, ma perché è tenuta in vita. Secondo un funzionario greco, 27 miliardi sarebbero destinati di questi 60 a copertura del fabbisogno del 2012, gli altri 32 per il 2013. Il governo greco, che è bravissimo soprattutto nell'orgoglio nazionale in questo periodo, ha smentito, smentendo si risolve poco. Lunedì prossimo c'è il vertice dei paesi, dei ministri economico-finanziari dell'area euro e dell'Europa, Eurogruppo e Ecofin, e la questione greca chiaramente sarà al centro. Ricordo che tutto ha subito una nuova accelerazione dopo l'abbassamento di voto da parte di Standard & Poor's ieri sul debito greco da BB- a B. E appunto un titolo, un bot greco a due anni paga il 25% di interessi e quello a 10 anni il 15%. Sono praticamente in queste condizioni impossibili nuovi collocamenti, cioè la Grecia, lo ripeto perché vedo molti messaggi, sarebbe pazzia cercare dei sottoscrittori per il tuo debito se devi pagare 23% di interessi, preferisci non collocare il debito e trovare altri canali, per, appunto quelli europei, per ottenere finanziamenti. A inizio dell'anno prossimo, lo ricordo ancora una volta, la Grecia deve trovare tra i 25 e i 30 miliardi per far fronte a obbligazioni che scadono, e come avviene per i bot, quando scadono le devi ridare. Auguri. La Banca Centrale Europea, e chiudiamo su questo, tra l'altro è esposta nei confronti della Grecia per quasi 200 miliardi tra bot greci che ha comprato direttamente la Banca Centrale Europea e prestiti alle banche greche. 200 miliardi. Ora, se sommiamo i 200 miliardi di aiuto della BCE, i 110 di aiuto del Fondo Monetario dell'Unione Europea, capite bene che la Grecia, ripeto, è tenuta in vita come, diciamo, come finanza pubblica artificialmente. E domani tutto il paese si ferma per 24 ore per protestare contro le misure di austerity del governo. Bini Smaghi, uno dei membri della Banca Centrale Europea a Firenze, è intervenuto nel corso di una o due giorni dedicata all'Europa e ha definito un suicidio politico l'uscita dall'euro. Non è nell'interesse di alcun paese uscire dall'euro, sarebbe una situazione drammatica. Oggi ho detto che sarebbe un suicidio politico, credo. Nessun capo di Stato, di governo riuscirebbe a sopravvivere di fronte alla propria popolazione una decisione di questo tipo. La Grecia deve attuare il programma che richiede una serie di misure che in questi mesi forse sono state ritardate e poi si vedrà quando si tratterà di tornare sul mercato se il mercato avrà sufficiente fiducia o no e altrimenti di vedere come aiutare la Grecia a mettere in atto appunto questo programma che poi porta al risanamento definitivo delle finanze pubbliche. Non teniamo più conto delle agenzie di rating, soprattutto nei paesi dove c'è un programma di risanamento col Fondo Monetario, riteniamo che le informazioni che abbiamo noi sono migliori. Quanto all'esposizione delle banche italiane verso la Grecia, insomma, a noi risultava che il paese più esposto fosse la Francia, 50 miliardi di euro, 18 miliardi alle banche, dalle banche, 20 dalle assicurazioni francesi, 3 dai fondi e 7 miliardi dell'autorità monetaria. Poi c'è la Germania con 28 miliardi, l'Italia con 20. Di questi 20 miliardi di prestiti che ha sviluppato l'Italia nei confronti della Grecia, 5 miliardi sarebbero di pertinenza delle banche, 8 miliardi delle assicurazioni, 6 miliardi di fondi. Però il presidente dell'AVI, dell'Associazione Bancaria Italiana, Giuseppe Mussari, intervistato dalla nostra Alessandra Schepisi, proprio a margine dell'Assemblea Annuale delle Grandi Imprese per l'Italia, ha detto: attenzione, la nostra esposizione è praticamente nulla. Pare che le banche italiane siano molto relativamente esposte, anzi per niente esposte rispetto alla Grecia. Brevissima, laconica, dichiarazione di Giuseppe Mussari, che poi ascolteremo nel commento anche all'Assemblea Rete Imprese per l'Italia. Ancora due brevissime notizie. Il riciclaggio di denaro sporco consente ai criminali di entrare nei consigli di amministrazione delle imprese e giocare così un ruolo rilevante nell'economia e nella politica. E non lo dice un magistrato, ma lo dice il vice direttore generale della Banca d'Italia, Anna Maria Tarantola, che è intervenuta alla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze. Ancora vedo molte domande sul tema dei traghetti. Vi avevo annunciato una puntata, in realtà l'abbiamo fatta fare a Oscar Giannino questa mattina, con anche il presidente della regione Sardegna. E traghetti, caro traghetti, rincari tra il 60 e il 40%. E la regione Sardegna ha confermato la decisione di noleggiare tramite la Saremar navi con cui intende assicurare alcuni collegamenti con la penisola e quindi con l'Italia a prezzi calmierati. Le ragioni che hanno spinto la regione Sardegna a affittare direttamente alcuni traghetti le ha spiegate appunto il presidente della regione Ugo Cappellacci, ospite questa mattina di Oscar Giannino 9 in punto. Noi riteniamo che si siano violate le regole del libero mercato e l'intervento della regione non è un intervento che vuole ripristinare il cosiddetto servizio pubblico onerato o che in qualche modo altera i meccanismi del mercato, perché noi abbiamo deciso di partire intanto in via sperimentale, questo è importante dirlo, lo facciamo attraverso la nostra controllata che è la società Saremar, che fino ad oggi si è occupata dei collegamenti da e per la Sardegna e le isole minori e che però a norma e statuto può svolgere anche collegamenti con la penisola. Noi lo facciamo con un meccanismo che intanto si basa su un principio contabilità separata per dimostrare la sostenibilità dell'iniziativa. Riteniamo cioè che l'iniziativa si regga sulla base delle regole del mercato, con l'incontro tra domanda e offerta, e che sia possibile chiudere con equilibrio di bilancio. Abbiamo dato mandato alla Saremar perché avviasse tutte le procedure per coprire due almeno fra tre tratte che abbiamo indicato, che sono le tratte che collegano la Sardegna nord-orientale con l'Italia centro-meridionale e la Sardegna nord-orientale con l'Italia centro-settentrionale, oltre che Sardegna nord-occidentale con l'Italia settentrionale. La Saremar interviene sul mercato attraverso il nolo cosiddetto armato delle navi che vengono reperite attraverso l'utilizzo di broker specializzati e cerca di intervenire ripristinando quelle regole, o meglio quelle condizioni che vigevano sino all'anno scorso, a due anni fa, e che erano condizioni che noi riteniamo siano assolutamente sostenibili. Questa iniziativa da un lato tenta di trovare una soluzione, dall'altro mi rendo conto ha un po' rallentato il processo e le prenotazioni. Posso dire che dal 15 di maggio, quindi tra 5 giorni esatti, sul sito della Saremar sarà possibile effettuare le prenotazioni per questo nuovo tipo di offerta. Così appunto il governatore o presidente della regione Sardegna Ugo Cappellacci. Devo rispondere a una domanda di un ascoltatore su questo. Dice: ma come, prima si privatizza la Tirrenia, che comunque viaggiava, navigava, per essere ancora più precisi, in debiti enormi di anno in anno, e poi toccano leggere le navi. No, è un po' diverso, perché parlando con gli armatori, quindi con le compagnie appunto Mobilines, ma non solo, tutti quelli che garantiscono i collegamenti. Quello che SNAV sta capitando è che l'incidenza del prezzo del petrolio, dicono loro, è intorno al 50% del costo complessivo, e quindi con un petrolio che è andato da 48-50 dollari a 101, 102, 103, e poi quello che pagano loro dicono essere ancora più alto, i prezzi siano schizzati. 60% è tanto. Comunque, insomma, il motivo per cui i prezzi sono aumentati, stando a quello che dicono le compagnie di navigazione, si chiama petrolio, non il venir meno della concorrenza della Tirrenia, che aveva un effetto, diciamo, di calmierazione sui prezzi. Una nota di servizio: volete sapere se siamo al Salone del Libro di Torino? Sì, tutta la radio, con molti programmi, è al Salone del Libro di Torino, che inizia giovedì. Nel caso specifico Focus Economia con il sottoscritto sarà a Torino venerdì, quindi veniteci a trovare. Abbiamo un'ampia arena dove poter assistere alla diretta del programma, comodamente seduti, con tutti i gadget della radio. Altro non possiamo dare. Venerdì 13 al Salone del Libro di Torino, il padiglione è il padiglione 2. Presidente Giorgio Guerrini, presidente di Rete Imprese per l'Italia, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, siete arrivati solo temporalmente, ci mancherebbe, dopo l'assise Confindustria di Bergamo, quella di sabato, pur con due mondi molto diversi, perché il mondo che voi rappresentate erano le associazioni Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casa Artigiani, CNA, però mi sembra che, se posso forzare l'analisi, anche le vostre richieste siano abbastanza simili al mondo degli industriali, anche insomma, il mondo produttivo. Devo dire che è abbastanza accomunato da questa difficoltà di uscita dalla crisi. Avete chiesto subito 7 politiche per la crescita. Quali sono? Ma dunque, intanto l'azione di rappresentanza che fa Rete Imprese Italia non è in contrasto o in alternativa a quella di Confindustria. Si tratta di rappresentare le esigenze di due mondi che sono simili per molti aspetti e che sono differenti per altri. La nostra rappresentanza è una rappresentanza che cerca di far riflettere il decisore politico nel mettere al centro di tutti i provvedimenti quella che è l'impresa più largamente diffusa nel Paese, che vale per oltre il 98% delle imprese che sono sotto 20 dipendenti, che vale quasi il 60% dell'occupazione. E quindi noi riteniamo che per agganciare la ripresa che non c'è, perché in Europa ormai da molto tempo è ripartita l'economia, ma il nostro paese fa fatica ad agganciarla, perché non rimuove quelli che sono gli ostacoli da sempre alla crescita. Noi abbiamo individuato questi 7 temi. Al primo posto ci sta il tema delle semplificazioni, che è usata da alcuni anni come bandiera, ma che di fatto non arriva mai ad avere una ricaduta diretta sia nella vita delle imprese che in quella dei cittadini. E quindi, al di là di alcuni slogan sentiti in questi anni o di alcune azioni folcloristiche che hanno visto ministri bruciare con il lanciafiamme degli scatoloni vuoti, le imprese italiane chiedono, soprattutto quelle di piccole dimensioni, una vera lotta alla burocrazia che costa alle imprese italiane più di 20 miliardi all'anno, il che vuol dire un punto di PIL. Anche un punto e mezzo. Un altro punto qualificante è finalmente la ripresa di una stagione di liberalizzazioni, che purtroppo in questo paese si è fermata troppo presto, quando è andata a toccare interessi importanti. Noi abbiamo un paese ingessato dove vi sono delle rendite di posizioni fuori del tempo, a cominciare dai servizi pubblici locali per finire ai trasporti, all'erogazione del gas, alla distribuzione dell'acqua, ai servizi bancari e assicurativi, che hanno bisogno di vere liberalizzazioni. Un altro tema molto importante è quello del fisco. Il ministro Tremonti ha iniziato nel mese di ottobre, convocando tutte le parti sociali, un percorso che si dovrebbe completare, noi ci auguriamo tra non molto, in una vera e propria rivoluzione copernicana, come ha detto lui, e cioè una nuova fiscalità in questo paese. Le linee guida sono dal complicato al semplice. Noi vorremmo un fisco più leggero, vorremmo un fisco meno burocratico, vorremmo soprattutto un rapporto tra contribuente e fisco basato sulla trasparenza. Ci auguriamo che il percorso che si è cominciato a novembre, che si è sviluppato su una serie molto importante e lunga di tavoli tecnici, che ha prodotto dei risultati molto positivi, poi ecco, veda un reale compimento. Ecco, vorrei... Su questo con Confindustria abbiamo qualche diversa visuale. Ecco. Noi crediamo che andare ad incidere su un aumento elevato delle aliquote IVA non sia una cosa positiva, perché il mercato interno è molto compresso e questo lo comprime ancora di più. Noi pensiamo invece che un'operazione che vada a toccare in maniera intelligente e ampia le aliquote, innanzitutto alleggerendo la pressione fiscale sul lavoro, che in questo paese è troppo elevata. Ho capito benissimo, è chiaro, insomma, adesso io si traduco anche per chi ne ascolta. La Confindustria lamenta un IRAP perché gli imprenditori di solito hanno molti più dipendenti in media di voi, e quindi puntano più sull'IRAP, che è una tassa che va a penalizzare chi ha più dipendenti. Benissimo. Voi dite, voi dite attenzione, noi non siamo d'accordo sull'IVA, perché l'IVA in realtà, oltre che pesare anche sui suoi associati, poi pesa su di noi per i consumi. Però mi interessa la prima parte, la parte in cui avete quasi identità di vedute, perché se noi mettiamo assieme i 2 milioni e 600.000 2.800.000 imprese iscritte, cioè tutte le imprese artigiane del commercio e quant'altro, con le imprese, diciamo, della Confindustria, quindi con la piccola e media impresa italiana, oltre che le grandi, abbiamo fatto praticamente la parte produttiva del paese, quella privata. Abbiamo fatto tutta la parte produttiva. Si manca l'agricoltura che pesa per il 5%, ma ci mancherebbe. Però la cosa impressionante è che voi dite le stesse cose che abbiamo sentito a Bergamo sabato, ossia semplificazioni burocratiche a partire da quelle fiscali, facci pagare le tasse, ma faccele pagare in maniera unica, non con 10 controlli, 15 controlli e decine di adempimenti. E poi privatizzazioni. Allora, Guerini, lei è un uomo troppo navigato e esperto, visto che viene dal mondo della Confartigianato, per non essersi fatto questa domanda: perché secondo lei il governo queste riforme a costo zero, non parlo dell'abbattimento fiscale, lì entriamo in un altro campo, ma le riforme per le liberalizzazioni, per mettere in concorrenza settori, abbassare il prezzo finale per noi utenti, quindi anche per voi, e le semplificazioni burocratiche, perché non le hanno fatte? Lei una domanda? Io credo che al fondo ci sia una grande verità, che è questa: noi ci siamo costruiti nei decenni un'impalcatura istituzionale e di pubblica amministrazione che è un gigante. Il timore di liberalizzare è di non sapere come impiegare tutta questa forza lavoro, che molto spesso si alimenta da sola. Allora, noi dobbiamo invece fare un'operazione inversa, noi dobbiamo sfoltire questa macchina burocratica, sfoltire le aree in cui lo Stato esercita la propria azione, anche su settori importanti come quello della previdenza, come quello della sanità, dare maggiore responsabilità al privato organizzato. Diciamo. No, mi scusi, io però ho fatto un'altra domanda, cioè questo governo, a cui, diciamo, che non è un governo che ha mai difeso gli statali o che ha il bacino elettorale dal mondo del pubblico impiego, anzi ha un bacino elettorale proprio nei suoi associati, artigiani, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, e anche, diciamo, ha sempre avuto un'attenzione per il mondo delle imprese. Perché secondo lei, ho capito la crisi, ma stiamo parlando di riforme a costo zero, perché non si è arrivato, perché avete avuto poca capacità di incidere, perché contate meno voi degli avvocati, perché, per quale motivo? Ma guardi, se lei va a vedere nel programma del PDL, c'è scritto in maniera molto chiara che dovevano essere accorpati i comuni piccoli, dovevano essere eliminate le province, si doveva fare la riforma dei servizi pubblici locali. io sono navigato, ma anche lei credo sia abbastanza navigato. Come mai non si sono fatte queste riforme davvero a costo zero? Perché purtroppo le forze politiche che controllano questo tipo di dinamiche, il che vuol dire si collocano le persone, il che vuol dire si collocano il personale politico magari da riciclare, e non consentono alla società civile di occuparsi di queste aree. Noi dobbiamo tutti insieme, e per questo vi è una identità di intenti tra l'azione di Confindustria e quella di Rete Impresa Italia, spingere il decisore politico a fare le cose che servono al Paese e non a quelle che servono alla politica. L'unica parte di questo Paese che non ha disoccupazione, l'abbiamo visto dai giornali oggi, è la politica, perché si sono candidati decine di migliaia di persone che pensano poi di poter occupare quei ruoli. Ho ancora due domande per lei, Guerini, rapidissimo. La prima, cosa pensate di fare? Cioè, se in 3 anni non avete ottenuto nulla, che cosa vi fa immaginare che potreste ottenere qualcosa? Anche perché adesso siamo in periodo elettorale, poi finite le elezioni si torna alla normale amministrazione. Cioè, avete in mente qualche iniziativa oppure continuerete a fare un lavoro così di lobby in senso positivo ma istituzionale? Noi continuiamo a fare la nostra azione battere sempre sui soliti chiodi, perché ho visto che è la cosa più necessaria da fare. Ognuno poi si prenderà le proprie responsabilità. Io rappresento le imprese e ci sono rappresentanti politici che hanno responsabilità di governo. Credo che se non riusciamo ad uscire presto da questa situazione, noi dovremmo affrontare il futuro con molti più problemi, perché la disoccupazione giovanile aumenta, la disoccupazione nel sud aumenta, la disoccupazione delle donne aumenta, perché non si liberano spazi di mercato. Ultima domanda, lei sa che nell'immaginario collettivo, ma devo dire anche nei dati, il mondo che lei rappresenta, che dà lavoro, che ha grandi meriti e quant'altro, però è anche, viene sempre additato come un mondo in cui, mettiamolo così, facilmente permeabile all'evasione fiscale. Allora, vorrei capire, voi avete chiesto, chiaramente avete fatto notare che il peso delle tasse arriva al 50%, c'è tutta una polemica in corso con gli studi di settore e quant'altro. Si riuscirà mai a arrivare a un accordo tra voi come associazione di categoria e il fisco per dire guarda, noi ti diamo la possibilità di avere maggiore trasparenza, tu però allo stesso tempo non vessarmi con troppi oneri e troppi, in qualche modo obblighi i miei associati? Ma guardi, noi abbiamo avviato da tempo con il fisco un percorso che credo positivo. Gli studi di settore hanno dimostrato che nei settori da Rete Imprese rappresentati il percorso di estrazione di evasione fiscale nel tempo è diminuito. Gli studi di settore sono stati sviluppati in maniera adeguata a registrare quella che è la vera attività delle imprese nei territori, perché vi è una componente anche di misurazione territoriale di quello che poi le imprese riescono a sviluppare. Io credo che il problema della pressione fiscale sia un problema molto ampio, che riguarda non solo i settori del commercio e dell'artigianato, ma riguarda un po' tutti. Intanto lo scudo fiscale, che ha riportato qualche centinaio di miliardi in questo Paese, non era certamente 105, sì, rappresentato, certo, rappresentato da commercianti e da artigiani, quindi credo che sia un problema che riguarda la piccola come la grande impresa, riguarda il lavoro dipendente ma anche il lavoro autonomo, ma anche il lavoro dipendente, perché sappiamo benissimo in questo Paese che ci sono persone che fanno doppio e terzo lavoro. Certo. Allora, se affrontiamo il tema in maniera pragmatica, tutti insieme, ognuno prendendosi le proprie responsabilità e trovando le soluzioni, sono sicuro, ne sono certo, arriveremo a definire una proposta condivisa. Facciamolo così. Affrontiamo il problema come lo affrontava Visco qualche anno fa, imputando solo a dei settori la responsabilità, non andiamo da nessuna parte. Allora, io le propongo uno slogan per la prossima assemblea di Rete Imprese per l'Italia: meno vessazione e meno evasione. Facciamolo così. È uno slogan che mi piace. Ecco, voi più fate più attenzione. Ecco, meno tasse per tutti. No, sì, per Totti. No, Guerini, meno tasse per tutti non si può in questo periodo con i conti pubblici che abbiamo. Però meno vessazioni, intese come meno obblighi da adempiere, fammi pagare tasse, ma fammele pagare una volta sola. E meno evasione, perché anche lì sappiamo che sulle categorie del lavoro autonomo, non solo le vostre, vi mancherebbe, però 200 miliardi di imponibile che mancano e 100 miliardi di mancate entrate, quelle non sono da attribuirsi alla busta paga dei lavoratori dipendenti. Grazie al Presidente delle Imprese per l'Italia, Giorgio Guerrini. Grazie a voi e buona serata. Grazie. Meno vessazione, meno evasione, con questo slogan ci fermiamo. Meteo, pubblicità, poi la borsa, poi il mercato immobiliare, il settore auto, la Grecia e l'operazione Microsoft Skype. Vedo che in regia scuotono la testa, non ce la farei mai. Vi smentirò, meteo. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Vedo molti messaggi sulle dichiarazioni del Presidente di Rete Imprese per l'Italia, nostro ospite poco fa, sull'evasione. Vabbè, allora, mettiamola così. Noi in questo programma non abbiamo mai avuto dubbio in 10 anni nel condannare un'evasione fuori da ogni media europea. Basterebbe ricondurla a una media francese. 100 miliardi di mancate entrate per lo Stato, 200 miliardi di imponibile evaso. Detto ciò, e quindi tutte le categorie coinvolte, non si possono accusare i lavoratori dipendenti, tranne nel caso che facciano doppio lavoro, ma lì non è più lavoratore dipendente, è lavoratore in nero. Starei attento sulle categorie. È vero che gli artigiani e il mondo del commercio ha una storia anche in questo senso, però attenzione, penso di poter dire con qualche margine di certezza che l'evasione grossa non arriva da lì. Andiamo a vedere chi ha scudato, o andiamo a vedere dove, cosa scopre la Guardia di Finanza. Non è l'artigiano o il commerciante, diciamo, piccolo, da cui arriva il grosso dell'evasione fiscale. Comunque, ognuno mette una mano sulla coscienza. Adesso però devo fare i mercati. Borse positive oggi, in recupero i bancari che ieri più avevano ceduto per via dei timori greci, timori che non si sono affatto allontanati, anzi ne parleremo più avanti. Però le borse oggi, insomma, vogliono recuperare, più 1,20% Parigi e Francoforte, e anche Londra, Milano più 1,5%, bene Mediolanum più 3,20, Prismian più 2,80, Pirelli più 2,60, Unicredito più 2,30, Finmeccanica più 2,30, Tod's più 2% come Banco Popolare e Enel Green Power. L'1,90 lo guadagnano la Popolare di Milano e Intesa San Paolo, l'1,80 il rialzo di Enel. Mediobanca, il Monte dei Paschi di Siena. E allora, siamo in collegamento come sempre con Radio Corriere Sole 24 Ore. Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera. Rimbalzo c'è stato, Mediolanum. Sì, Mediolanum, questa mattina il Messaggero ha scritto che ci sono trattative in corso tra Mediolanum e Julius Baer, perché la banca appunto svizzera sarebbe interessata al 50% di Banca Esperia, l'istituto che Mediolanum detiene insieme a Mediobanca. D'altra parte poi nel corso del pomeriggio è arrivata una semi-smentita, nel senso che Julius Baer ha detto che effettivamente nelle scorse settimane ci sono state trattative, ma queste si sono arenate. D'altra parte appunto il mercato continua a credere che magari qualcosa possa avvenire, ha sospinto in alto le quotazioni in Mediolanum, come hai detto tu, di oltre il 3%. Sì, in generale le banche sono state ben spinte dalle dichiarazioni Musseri che abbiamo fatto, presidente dell'ABI, che abbiamo fatto ascoltare all'inizio del programma. Abbiamo quei 4 secondi ancora, faccio segno in regia. È proprio una battuta secchissima sulla scarsa o quasi inesistente esposizione delle banche italiane verso la Grecia. Pare che le banche italiane siano molto relativamente esposte, anzi per niente esposte rispetto alla Grecia. E questo è bastato, bene appunto anche il resto del settore. Andiamo ancora sui singoli titoli. Autogrill, bene, da un lato, e poi Parmalat. Sì, Autogrill oggi ha è stata ha beneficiato dei conti della prima parte dell'anno, che si sono chiusi con una perdita dimezzata rispetto allo stesso periodo del 2010 a 4,3 milioni. Il fatturato peraltro è salito di oltre il 3% e quindi la borsa ha premiato la società con un progresso iniziale, tuttavia poi sul finale le azioni hanno nettamente frenato e hanno chiuso in calo dello 0,67%. Sì, giornata strana. Parmalat? Per quanto riguarda Parmalat c'è molta attesa sul fatto che possa essere ritoccato all'insù il prezzo dell'OPA lanciata dall'Actalis a 2,6 euro. Peraltro i titoli si attestano hanno chiuso a 2,63 euro, livello superiore evidentemente all'offerta del gruppo francese. Si fa sempre più pressante l'ipotesi che il prezzo possa essere ritoccato a 2,8 euro, sì. Anche se per adesso non c'è nessuna notizia. Beh, insomma, in da quello che abbiamo capito la situazione è la seguente: se questa offerta pubblica di Lactalis su Parmalat è amichevole, puoi offrire anche 2,60 euro, perché hai comprato invece le quote, il 30%, il 29% dei fondi l'hai comprato a 2,80 euro. Se però questa offerta dovesse essere definita ostile, l'obbligo è offrire la stessa cosa che ho offerto agli altri, quindi 2,80 euro, ho capito bene? Sì, 2,80 euro è esattamente il prezzo che Lactalis ha pagato per rilevare il 15% circa dai fondi. E quindi c'è appunto l'ipotesi che si vada nella direzione che appunto Lactalis, anche se in verità non è affatto certo, anzi... Cioè, vabbè, questo lo vedremo. Io devo lasciare la linea alle informazioni sul traffico e poi fare ancora un paio di titoli con te. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta, allora, Eleonora Micheli, migliori e peggiori oggi, CDC Point più 15,90, Mondo Home Entertainment più 9,90, Casa Damiani più 8,16, Ross più 6, Montefibre più 5%, i peggiori Ratti meno 7% e poi poco altro, RDB meno 6,40, TAS meno 3,90%, Fiat... Sì, per quanto riguarda Fiat, ancora una volta i titoli sono rimasti al centro dell'attenzione, del resto ci si interroga sul fatto che la società possa salire in Chrysler al 70%, infatti c'è stata la notizia che la quota del lingotto in Chrysler potrà superare il 70% grazie a una serie di call e option di cui il lingotto dispone. Quindi questo ha di nuovo riacceso i riflettori su Fiat SPA, che ha registrato un incremento dell'1,5%. Va detto comunque che oggi è andato bene tutto il settore auto europeo, sì, più 1,4 sì. Il sottoindice Stock 600. Brava Eleonora, è proprio così, tutto il settore auto si è mosso, comunque si è mossa anche Fiat e poi c'è la notizia a quanto potrà arrivare insomma la quota del lingotto in Chrysler. Bene anche il comparto dell'energia, l'abbiamo già spiegato, A2A più 0,60, ma soprattutto Enel Green Power più 2%. E Enel più 1,80%, Eni più 1,30%. Grazie, Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore. Noi restiamo in tema di auto invece, ma non per parlare di Fiat una volta tanto, per parlare del mondo che gira attorno all'auto, ossia 4.000 operatori presenti in questo momento a Verona, ma stiamo parlando di un settore che sostanzialmente fornisce al settore auto tutto ciò che serve, è il cosiddetto indotto. È iniziata oggi a Verona l'Automotive Dealer Day, la prima delle tre giornate appunto del settore automobilistico. Sono 4.000 concessionari associati a Federauto, quindi autovetture, veicoli commerciali, industriali, il 6% del PIL, vuol dire 180.000 persone impiegate. Siamo in collegamento col presidente di Federauto, che appunto raggruppa la Federazione Italiana di Concessionari di Auto, Filippo Pavan Bernacchi, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Al di là della Fiat, di cui spesso parliamo perché chiaramente è una partita che riguarda da vicino il nostro paese, abbiamo visto dei dati drammatici sulle immatricolazioni nel mese di aprile, meno 2,24% contro attese, sì, di un recupero. Mi dica. Prego. No, volevo capire come state sopravvivendo voi. Mi dica. Sì, l'aprile di quest'anno è il mese vero dove si possono fare delle considerazioni, perché i confronti fatti con l'anno precedente. Ricordo che l'anno scorso si potevano acquistare le vetture entro dicembre del 2009 con la rottamazione governativa, ma immatricolare entro marzo. E questo naturalmente ha sfalsato i dati, per cui il primo trimestre di quest'anno abbiamo perso il 20% rispetto all'anno scorso. Adesso aprile ci dà il vero polso del mercato, è a meno 2%, però è comunque drammatico perché proietta l'anno a 1.800.000 vetture. Ricordiamo che per esempio nel 2007 abbiamo fatto 2.470.000, quindi passare da 2.470.000 a 1.800.000 è veramente forte. Ecco, i suoi associati com'è che tengono botta? Perché non parliamo solo del gruppo Fiat, ma parliamo di tutto il settore, prego. Sì, allora noi rappresentiamo 3.800 precisamente concessionari di tutti i brand commercializzati in Italia. Allora, tengono botta innanzitutto, purtroppo hanno dovuto operare dei tagli drastici, in primis sul personale, a volte utilizzando gli ammortizzatori sociali, a volte purtroppo licenziando e basta. E quindi prima il discorso dei costi, e poi stanno cercando non solo di concentrarsi sul nuovo, ma anche su tutte le aree di business, quindi l'usato, i ricambi, l'assistenza e i servizi, quindi anche le assicurazioni, i finanziamenti, perché solo essendo bravi in tutti i business si può pensare di traghettare, di arrivare fino all'uscita della crisi. Allora, Presidente Bernacchi, siccome stiamo parlando appunto di 4.000 concessionari di auto, veicoli commerciali, industriali, le chiedo ancora qualche minuto di pazienza, abbiamo il nostro GR, e poi vorrei che mi rispondesse a due domande. Una la stava già accennando, il tema, ossia l'usato, ce lo chiedono molti ascoltatori, perché non inventarsi qualche formula. L'altro, le auto elettriche, le auto che pesano meno, cioè insomma, se notate qualcosa, se si muove qualcosa, perché a noi risulta che insomma 3 su 4 italiani alla domanda rispondono positivamente, ossia stanno prendendo in esame la possibilità di comprare un veicolo a zero emissioni. Ci sentiamo però dopo il GR 349-238-6666, e poi parliamo di Grecia e dell'offerta da 2.400.000.000 di Microsoft per Skype. ...18:08 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vorrei concludere l'approfondimento con il settore dell'auto, o meglio in questo caso di concessionari di auto, poi passare alla Grecia e a Microsoft Skype. Un brevissimo inciso, se poi volete rispondere anche al 349-238-6666, c'è chi dice, ma insomma la borsa è troppo corta, l'aggiornamento di borsa è troppo breve. Io dico, attenzione, perché l'economia non è solo la borsa. La diamo in apertura, la diamo con l'aggiornamento con Radio Core, esistono anche i settori produttivi dell'artigianato, come abbiamo visto con Guerrini, il settore dell'auto, gli investitori che hanno obbligazioni greche, insomma non c'è solo la borsa, abbiate anche pazienza, poi quando la borsa fa notizia ci facciamo anche mezz'ora. Comunque, se volete esprimere il vostro pensiero al 349-238-6666, anche su questo, vorrei continuare invece con il presidente di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi. Le avevo chiesto prima del GR, in sostanza, se non si può, vista la difficoltà del settore, se non si può spingere anche su altre formule, per esempio il mercato dell'usato, se notate un interesse reale nei confronti dell'auto elettrica, e poi un'ultima domanda, così vi faccio fare una risposta complessiva: come mai negli ultimi 5 anni la metà dei vostri concessionari, dei concessionari associati, ha chiuso in rosso, ma c'è anche chi è cresciuto del 30%? Cos'è che fa la differenza? Prego. Allora, l'usato è importantissimo, l'usato sta tenendo dei volumi molto elevati, quindi ha una piccola contrazione, però abbiamo notato che molto spesso i privati si vendono l'usato tra di loro, perdendo delle garanzie importantissime, perché noi siamo obbligati a dare 24 mesi di garanzia, mentre tra privato e privato la garanzia non esiste, quindi attenzione quando si compra l'usato, perché tante volte si pensa di fare un affare, ma se non si compra da un concessionario ufficiale tante volte l'affare non si fa. Per invece l'alimentazione, noi è giusto dire che qualsiasi sia l'alimentazione, a noi vendiamo automobili che siano diesel, benzina, elettriche, GPL, metano, è lo stesso. Se possiamo scegliere, noi vorremmo vendere tutte vetture ad alta vocazione ecologica, quindi già adesso GPL e metano. L'elettrico costa molto, l'elettrico ha bisogno ancora di infrastrutture che non sono presenti nel nostro paese, È una scommessa, cioè, gli analisti dicono che nei prossimi 10-15 anni avrà un'entrata molto bassa perché avrebbe bisogno di incentivi statali e i denari non ci sono. Arrivando poi al nostro comparto, è vero, dal 2005 tendenzialmente i concessionari perdono, hanno dichiarato una perdita dal 36% al 47% nei vari anni, no? Quindi nel 2010 tendenzialmente un concessionario su due ha dichiarato una perdita. Il problema è un problema strutturale, è un problema che possiamo risolvere solo con i costruttori, perché dobbiamo trovare delle regole che consentano a chi fa questo lavoro di tenere dei margini, perché solo chi guadagna può investire nella garanzia e nella soddisfazione del cliente. E quindi questo giustifica anche le differenze sulla crescita? Ecco, beh, per la crescita succede questo: quando andiamo a vedere che il mercato cala e cala veramente tanto, poi se entriamo nel merito vediamo che ci sono dei marchi che stanno acquistando quote e volumi e altri che stanno perdendo. Perché? Perché è tutto un discorso basato sul marketing, sui prezzi, sui prodotti, e vince chi lancia i prodotti più innovativi e più accattivanti e ha la rete forte e soddisfatta. Gli esempi si moltiplicano, adesso per esempio possiamo parlare del caso Giulietta che fa la differenza per l'Alfa Romeo, ma sicuramente ci sono anche dei casi interessanti per Volkswagen e Audi che vedono degli aumenti sicuramente forti. Sì, e poi qualcosa si può fare anche al vostro interno, ma lei già vi accennava nella prima ora del programma. Grazie e in bocca al lupo appunto per l'Automotive Dealer Day, che è appunto da tre giorni di chi vende le auto, non di chi la fabbrica. Grazie al presidente di Federauto Filippo Pavan Bernacchi. Mentre continuano ad arrivare sms, li ho chiesti io, sono benvenuti, fa dare più spazio alla borsa anche al di là delle notizie, anche per entrare in elementi più tecnici o raccontare tutto il resto dell'economia. C'è chi scrive: la borsa è il cuore dell'economia, insomma, le imprese sono il cuore dell'economia, la borsa è un ottimo mezzo per trovare liquidità per l'economia, se vogliamo mettere i puntini su lei. Parliamo di mercato, ma di un mercato che si sta fermando. Voglio partire subito morbido: è il mercato del debito greco. Perché lo dico? Perché oggi sulla Grecia è piovuto sul bagnato, nel senso che vi sono indiscrezioni addirittura che provengono dalla stessa Grecia, per cui la Grecia si appresta a chiedere 60 miliardi di euro di aiuti, che andrebbero a sommarsi ai 110 miliardi già dati dal Fondo Monetario Internazionale dell'Unione Europea. Se fate le proporzioni tra quello che è il PIL greco, è come se l'Italia avesse ricevuto 800-900 miliardi di euro di aiuti, cioè adesso vado a spanne, stiamo parlando di un 80 anni di manovre finanziarie, e ne vuole appunto altri 60, 32 dovrebbero servire per il 2012 e gli altri per le coperture del fabbisogno dell'anno successivo. Tra l'altro oggi un titolo di Stato greco a due anni paga interessi del 25%, pagherebbe, perché chi lo va a emettere un titolo così? È quello che il mercato fotografa, non è che vi siano in giro questi titoli, e i decennali sono al 15,4%. È chiaro che con queste cifre, cioè, il rischio viene visto immediato, il governo greco non riesce a emettere obbligazioni. Vittorio D'Arold del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Vedremo cosa deciderà poi il vertice Ecofin lunedì, che avrà come tema la Grecia. Però insomma, la domanda che tutti si stanno facendo è: dove si potrà arrivare, dove si potrà spingere questa richiesta greca, che poi non è ammessa formalmente perché il governo greco dice noi non stiamo fallendo. La Banca Centrale Europea è esposta per 200 miliardi tra prestiti, cioè tra acquisti diretti di obbligazioni greche e prestiti alle banche. Vittorio. Ma allora la situazione è questa. Venerdì c'è stata una riunione che doveva essere segreta dei ministri delle finanze europee del G20, quindi c'erano il nostro ministro Tremonti, il ministro francese Lagarde, Schäuble per i tedeschi e la Salgado per gli spagnoli. Che cosa è stato deciso? Oltre naturalmente al presidente della BCE e al presidente dell'Eurozona, Juncker. E, cosa si è cercato di fare? Si è messo sul tappeto tutte le ipotesi, fra cui quella che ha lanciato Der Spiegel, cioè quella di lasciare la Grecia al suo destino e farla tornare alla dracma.

Allora, ti faccio l'ultima domanda utilizzando lo spunto di uno ascoltatore al 349-238-6666. Ma se la Grecia verrà comunque salvata, perché dovrebbe essere rischioso acquistare? E che te la posso girare dicendo, Vittorio, qual è la strada percorribile adesso? Dunque, la strada percorribile è quella appunto di un ulteriore aiuto. Perché un ulteriore aiuto? Perché la Grecia con l'attuale piano, che ricordiamo venne preso un po' in maniera affrettata, era un anno fa esattamente, era circa il 7 maggio, si riunirono in un weekend i ministri degli esteri, scusate, i ministri delle finanze e i capi di Stato e di governo della UE, decisero questo piano di 110 miliardi insieme al Fondo Monetario e con il coordinamento della Banca Centrale Europea. Ma non fu una cosa molto semplice. Ci furono mesi di discussione, c'erano chi non voleva nemmeno il fondo monetario. Insomma, La Germania non voleva dare assolutamente i soldi. Insomma, fu una cosa molto complessa. Alla fine si decise di dare questi soldi, che naturalmente venivano dati in tranche. Attenzione, solo 30 miliardi sono stati dati fino adesso, tutto il resto certo. Ancora. Ecco. E lo fecero per salvare questa situazione, che voleva dire salvare l'euro e le banche europee che erano coinvolte. Allora, che cosa è successo in tutto questo? Che oggi, nel 2012, la Grecia non avrebbe i soldi per quello che si chiama il debito che maturerà, cioè non sarebbe in grado di restituire i soldi a chi li ha prestati. E ha un deficit, perché nel frattempo la sua economia è andata giù di meno 4,5%. Cioè i negozi ad Atene chiudono. E quindi mi sembra che la strada sia quella che abbiamo in qualche modo già visto un anno fa. Non vi sono molte altre alternative che scrivano i tabloid tedeschi, Spiegel e quant'altro. Grazie, tanto mi sa che ci risentiremo, Vittorio Doria. Spero di no, nel senso che spero che la crisi greca si risolva domani, ma temo che avremo modo di risentirti. Grazie Vittorio D'Arolde. Grazie. Adesso chiudiamo con una buona notizia, buona notizia per Bill Gates. Today is a big day for Microsoft and Skype, as well as consumers and businesses around the world. By bringing together the best of Microsoft and the best of Skype, we will empower. Quello che state sentendo, che abbiamo raccolto poco fa, è Steve Ballmer, l'amministratore delegato di Microsoft, che dice: un grande giorno per Microsoft e Skype, uniamo il meglio delle due società. Ogni volta che sento parlare di comunicazione sento parlare di Skype. Il marchio Skype è il verbo, quasi il sinonimo della comunicazione via video. E perché è così contento Ballmer? Perché ha offerto 2 miliardi e 400 milioni, scusate, 8 miliardi e mezzo di dollari per comprarsi sostanzialmente Skype. È sostanzialmente il numero uno al mondo nella comunicazione via internet, comunicazione telefonica via internet, ma ha chiuso il 2010 con 7 milioni di perdita, pur avendo 860 milioni di fatturato, 170 milioni di utenti. Chiedo a Stefano Quintarelli, che da poco è direttore dell'area digitale del gruppo Sole 24 Ore, ma è stato uno dei fondatori di Inet, grande esperto di information technology. Stefano, buonasera. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Perché Microsoft, al di là del fatto che Skype sia un fenomeno di successo, va a comprarsi una società che perde 7 milioni di dollari, ha un debito complessivo di 690 milioni di dollari e va a pagare 8 miliardi e mezzo? Perché una volta che un'azienda riesce ad avere una comunità di utenti, è molto difficile far migrare questa comunità verso altri lidi. Per cui, di fatto, se noi dobbiamo fare una telefonata via internet con qualcuno, useremo Skype, perché è lì che ci stanno tutti. Cioè c'è un fatto di lock-in, per cui gli utenti non riescono a cambiare, e questo determina un effetto rete, quindi che sempre più utenti entrano. Di fatto Skype, a meno di cambiamenti nella regolamentazione, diciamo, è difficilmente sostituibile nelle comunicazioni vocali via internet. Per cui, nonostante, diciamo, una gestione operativa in perdita, tu dici il termine molto abusato, la sinergia tra Microsoft e Skype porterà un vantaggio alla stessa Microsoft? Enorme. Allora, una cosa banale, no? Quanti di noi quando fanno una telefonata sanno il numero di telefono dell'interlocutore? Oggi di fatto il numero di telefono è una cosa nascosta. Noi chiamiamo una persona sulla base di un numero che c'è in una rubrica. Ecco, adesso, visto che negli Stati Uniti si stanno vendendo più smartphone che altri telefoni e gli smartphone possono accomodare Skype, il passaggio a dire faccio le telefonate da uno smartphone all'altro usando Skype è abbastanza immediato. Cioè, con questa mossa Microsoft, facendo leva su Windows Phone e l'accordo fatto con Nokia di poco tempo fa, di fatto ha posto le basi per diventare l'operatore con l'L maiuscola mobile nella telefonia, pazzesco. Un'ultima domanda, 8 miliardi e mezzo secondo te, non che tu insomma, sia Bill Gates, ma sono tanti o è un prezzo giusto? Cioè, che la bellezza sta negli occhi di chi guarda. Per cui secondo, no, perché il mondo internet ci ha abituato anche a discrete bolle, no? No, ma assolutamente, ma qui non è che si sta comprando il fatturato o non si stanno comprando gli utenti, si sta comprando il fatto che in un'industria quello è l'unico, il player indiscusso dove non si vede, è stato attaccato da tante parti, ma non si vede chi possa farlo fuori, chi possa sostituirlo. Potrebbe sostituirlo Facebook. Però Facebook, di nuovo, stiamo andando a parlare sempre perché Facebook è l'altra grande directory di utenti mondiale, però di nuovo stiamo parlando di Microsoft, cioè la combinazione tra Windows Phone, Microsoft, Nokia e Skype è una combinazione, una macchina da guerra, ho capito. Grazie anche a Stefano Quintarelli. A me non resta che ricordare che saremo in diretta venerdì dal Salone del Libro di Torino, Padiglione 2, spazio anche per il pubblico, spazio anche per sedersi. E noi ci risentiamo venerdì, domani, dopodomani. Infatti i miei colleghi condurranno questo programma. Il sondaggio, mi dispiace dirlo a chi ci tiene di più alla borsa, ha vinto lo spazio attuale, anche perché fanno notare alcuni ascoltatori che è l'unico argomento, la borsa, che trattiamo tutti i giorni. Gli altri settori dell'economia e della finanza invece ruotano. Da Sebastiano Barisoni vi auguro una buona serata, vi lascio alla nostra programmazione. Radio 24, la passione si sente.